versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci in diretta alle 16.30, primi 56 secondi qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia come sempre per ascoltarci in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per intervenire sul tema di oggi, che sarà la Grecia e l'euro, anche alla luce dei risultati spagnoli e polacchi. Chiamate 800 24 00 24, 349 238 66, per gli sms con le vostre opinioni. Allora, sapete di che cosa si tratta, immagino, dopo averlo già detto a metà maggio che non avrebbe pagato la rata che scadeva a maggio nei confronti del Fondo Monetario Internazionale e aver risolto in extremis, si trattava di qualche centinaio di milioni di euro solo attingendo ai diritti speciali di prelievo al Fondo Monetario Internazionale, che nel frattempo però sono esauriti, sono parte del capitale di ogni membro nel Fondo Monetario Internazionale da parte della Grecia. La Grecia ha ufficialmente avvisato che i 1,6 miliardi che deve in quattro tranche sempre al Fondo Monetario a giugno non lo paga, non ha i soldi. È un messaggio rivolto al G7, i cui ministri delle finanze si riuniscono, gli sette ricordo, alla presenza tedesca in corso il 27 e 28 maggio, alla fine di questa settimana, quindi a Dresda, mentre i capi di Stato e di Governo si riuniscono poi il 7 e 8 giugno. Ed è a questo punto la questione, dopo quattro mesi di, io lo definisco balletto, insomma, tra il governo che ha vinto le elezioni a gennaio con Syriza, Tsipras, il ministro Varoufakis, l'Eurogruppo, la BCE, siamo arrivati a quanto pare a un punto di fondo. E quindi la domanda che vi faccio è: come la vedete, che cosa immaginate, che sia meglio l'uscita della Grecia, che sia meglio invece consentire quello che, a dire la verità, Syriza ha sempre detto da che aveva vinto le elezioni e ci aveva fatto la campagna elettorale. Aveva fatto la campagna elettorale dicendo la Grecia ha bisogno di una nuova ristrutturazione dopo quella dei tre salvataggi tra il 2011 e 2012, che avevano abbattuto di oltre il 60% il valore del debito pubblico greco, pelando i privati, cioè i titolari di privati del debito pubblico. Questa volta, lo ricordo, il debito pubblico greco è più o meno 320 miliardi di euro. Se sommiamo però a chi lo deve, questa volta è molto diverso rispetto al 2011 e 2012, perché la percentuale straordinaria maggioritaria, se si sommano i prestiti bilaterali tra i membri dell'euroarea, l'esposizione verso la BCE, l'esposizione verso la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, quasi il 70% di quella cifra è dovuta direttamente all'Europa, non a privati. Poi c'è un 9% circa dovuto al fondo monetario, un 16-17% di residui bondholder privati e un circa un 3% che è in pancia alla Grecia. E Syriza ha sempre detto: signori, noi per quanto ci abbiate diluito nei decenni le rate di pagamento di questo debito, abbiamo bisogno che l'Unione Europea ci abbatta di un altro 50% il residuo del debito pubblico, che per il 70%, ripeto, è nelle mani europee, di cui, sommando le diverse quota parti nazionali, c'è il conto per il quale l'Italia è esposta per circa una quarantina di miliardi, sommando le diverse partite come euromembro, la Francia circa 60, la Germania circa 90 miliardi. E a questo punto la scommessa è, la domanda più che la scommessa, c'è poco da scommettere: un nuovo accordo in extremis con un nuovo consolidamento del debito greco, oppure un'uscita concordata? Come sapete, i mercati hanno paura del contagio, l'euro è nato senza una clausola concordata di uscita. Quindi i mercati finanziari temono, ma è anche vero che in quattro mesi hanno imparato a non fidarsi, per così dire, perché l'Europa non l'ha presa forse troppo sul serio la richiesta greca. Siamo fermi da febbraio a una richiesta all'Eurogruppo di un programma molto serio che continuava con misure di rigore, e rispetto a quelle il balletto col governo greco. C'è stato un comitato centrale sabato e domenica di Syriza, al quale Tsipras ha ribadito che le privatizzazioni non deliberate prima di febbraio non vanno avanti, che la richiesta di contratti aziendali di produttività non può essere applicata come richiesto dalla BCE dell'Unione Europea, perché i contratti nazionali collettivi sono un punto di riferimento elettorale per Syriza, che sulle pensioni non si può fare quello che chiede l'Europa, e che le riassunzioni pubbliche dovrebbero procedere come da programma. Ed è proprio per questo che ha detto Tsipras al Comitato Centrale del suo partito che noi destiniamo a questo i soldi che abbiamo, non a ripagare la quota del Fondo Monetario. Su questo lo sfondo è dato anche dal risultato delle elezioni presidenziali in Polonia. Sapete che ha vinto il candidato euroscettico nazionalista e non quello liberale europeo, e del voto in Spagna. Il voto in Spagna, su cui i giornali italiani secondo me stanno commettendo un po' un errore inseguendo dati approssimativi, io mi limito a ripercorrere quelli che trovate sul país di adesso, pochi minuti fa. Se mettiamo insieme i risultati delle comunali dove non si presentava Podemos e delle regionali dove invece si presentava, il quadro del voto spagnolo è un po' diverso da come lo raccontano i giornali online italiani, che annunciano una specie di presa del potere da parte di Podemos. È molto diverso, perché nelle regionali i primi due partiti restano nettamente il Partito Popolare e il Partito Socialista. Il Partito Popolare perde 2 milioni di voti e 124 seggi, però resta il primo partito con 3.900.000 voti e 286 seggi. Il Partito Socialista perde 500.000 di voti e 37 seggi, ma 3.150.000 voti e 220 seggi. Quindi 3.900.000 voti i popolari, 3.150.000 voti i socialisti. Podemos è terzo con 1.800.000 voti e 109 seggi. E poi Ciudadanos quarto con 1.250.000 voti. Questo è il quadro, quindi un quadro che con le proiezioni nazionali, le trovate sul País, darebbe un risultato del Parlamento spagnolo con il Partito Popolare primo a 120 seggi, i socialisti secondi a 108 seggi, Podemos 37 seggi, Ciudadanos 18. Quindi c'è un problema di governabilità, ma risolvibile in quadro di alleanze. Però certo è un voto, anche quello spagnolo, in cui la protesta e l'insoddisfazione per le regole europee è il fortissimo traino, insieme al no agli scandali dei politici sia socialisti che del Partito Popolare, perché questo è il vero traino più forte sia di Podemos a sinistra che di Ciudadanos tra i moderati. Allora, per parlare delle prospettive greche e di questa continua sollevazione degli elettori europei rispetto alle regole europee, che certo è il quadro di fondo a cui tenere conto, abbiamo con noi Lorenzo Binisbaghi. Lorenzo Binisbaghi è stato per anni membro del consiglio direttivo della BCE, oggi è presidente di Snam e di Societe Generale. Io lo ringrazio molto di aver accettato l'invito a essere con noi collegato. Buon pomeriggio Binisbaghi. Buon pomeriggio. Allora, capisco che lei debba parlare in maniera molto equilibrata, per così dire, però è anche vero che ormai è libero dai vincoli che doveva seguire in maniera ferrea quando era nel consiglio direttivo della BCE. La sua opinione è che si debba continuare fino all'ultimo secondo in questo balletto di 4 mesi che non è arrivato ad alcuna conclusione con la Grecia, oppure ragionevolmente bisognerebbe affrontare una questione di fondo, cioè: cari greci, se non volete seguire le regole della moneta comune, concordiamo procedure di uscita? Oppure quale altra è l'ipotesi? Si può pensare a una moneta comune in cui si fa una quarta eccezione per i greci, chiedendo poi all'Italia, alla Spagna, al Portogallo, all'Irlanda invece di aver rispettato altre regole? Lei che dice? Ma dunque, il problema è complesso. Un elemento che forse andrei a completare nella sua introduzione è che i greci non hanno i soldi non solo per pagare il Fondo Monetario, ma non hanno nemmeno i soldi per fare quello, pagare che dicono, gli stipendi, esatto, gli stipendi, le pensioni. E dunque quello che loro vogliono è un altro finanziamento che consenta loro di mettere in atto il programma che hanno promesso, cioè di assumere più persone, di aumentare gli stipendi e via dicendo. Chiaramente a chi li chiedono i soldi? Ai mercati no, perché nessuno oggi presterebbe, no, al governo greco. Li chiedono agli altri paesi e al Fondo Monetario. Tra l'altro, Fondo Monetario, quando parliamo di Fondo Monetario parliamo anche di Cina, Brasile, America Latina e via dicendo. E la Grecia è riuscita a mettere tutti, a mettersi tutti contro, perché il negoziato è iniziato cercando di venire incontro alle esigenze greche anche dal punto di vista dell'allungamento del debito e via dicendo. Sostanzialmente il debito della Grecia oggi è come se non ci fosse, però quando vai a chiedere dei soldi in più è normale che ti si chieda almeno di allinearti su delle condizioni che sono quelle in vigore un po' altrove, no? Un po' in tutta Europa, soprattutto penso ai paesi europei più poveri, la Slovacchia, i paesi baltici, quelli appena entrati, quando si vedono di fronte una richiesta di dare alla Grecia dei soldi per pagare delle pensioni più alte di quelle che hanno loro, chiaramente si pongono dei problemi e non è facile trovare un accordo su questa linea. Oppure per pagare un reddito minimo come nel programma di Syriza di 720 esatto. euro, quando in alcuni dei paesi baltici membri appunto della moneta comune è di oltre 200 euro inferiore. Sì. Sì, intanto in Italia non c'è. E il problema credo che sia fare in modo, e questo credo che la cancelliera Merkel è molto attenta, fare in modo che la scelta finale poi spetti ai greci. Cioè ai greci si dice noi i soldi ve li potremmo anche dare, però cercate di allinearvi su quelle che sono le condizioni minime di sostenibilità anche in Europa, perché se voi ripartite su queste politiche di aumento della spesa pubblica tra due anni siamo di nuovo a capo, e se voi scegliete altrimenti è una vostra scelta, però poi ne prendete voi le conseguenze. Credo che oramai sono tutti allineati sulla stessa posizione, credo. Syriza e Tsipras in particolare si è dimostrato un leader credo molto capace a fare campagna elettorale, ma poi quando si deve trovare una sintesi e poi escludere gli estremi non si è rivelato in grado di farlo, e da quello che si capisce è che l'ala più estrema, più organizzata, perché quella più diciamo, tradizionalmente legata a partiti diciamo di sinistra organizzati, ha preso il sopravvento. Interessante notare che il ministro degli interni che ha annunciato che la Grecia non pagherà, insomma, mi sono interni che un vecchio politico. Espressione esattamente della radicale, sì. Sì, della radicale, quella più organizzata. L'altra parte di Syriza, cioè Syriza è un po' una cozzaglia di tante cose, anche di molti ragazzi, giovani che forse in vita loro non hanno avuto grandi occupazioni, per cui sono trovati scavalcati da chi era organizzato e da negoziato molto più duro. A questo punto è difficile sapere, riuscire a capire cosa può succedere in Grecia, anche perché un'uscita non è facile, non è che uno può obbligare i cittadini del proprio paese a non usare più l'euro, probabilmente tutti quelli che potranno usare l'euro continueranno a usarlo, perché rimane l'unica moneta stabile per proteggere i propri risparmi. Quello che potrebbe avvenire è che il governo comincerà a pagare i propri dipendenti e i propri pensionati e con dei buoni del tesoro, no? Che poi questi cittadini andranno in banca a cercare di incassarli e le banche probabilmente gli daranno molto meno del valore facciale. Perché questa cosa della moneta parallela, ricordiamola a chi è in ascolto che non è detto che sia versato in storia delle monete, quando gli stati procedono a emettere dei pagherò, ricordate per esempio la rivoluzione francese con gli assegnati che portò al primo console non a caso, che cosa capita? È come una dichiarazione a chi li riceve, cioè i dipendenti, i pensionati, i creditori, che in realtà il valore nominale stampato su cui pagherò è esattamente ciò che in realtà lo Stato non ha in tasca per pagarti. Quindi che cosa succede? Sul mercato secondario, quando vai a darli a chiunque, quello ti sconta quello che secondo lui per prenderlo di valore reale vale davvero quel pezzo di carta, il che nella storia è sempre stato così, è un metodo quel pagherò per rivelare nel giro di poche settimane o pochi mesi in realtà la percentuale di sconto di questa valuta parallela rispetto a quella che è denominata sul valore nominale di quel pezzo di carta, secondo anche il rischio in termini temporali di quando lo Stato in realtà andrà definitivamente a gambe all'aria, perché mi corregga, mi smaghi, ma più o meno nella storia è sempre stato così o no? Eh sì, purtroppo, e a quel punto lì non so come i cittadini possano continuare a sostenere un sistema di questo tipo, perché quando ti si aumenta la pensione, te la pagano col 20% in più, con uno strumento che tu poi vai in banca per incassare e te lo pagano col 20% in meno, non è cambiato nulla. E allora a quel punto gestire la protesta dei cittadini non sarà semplicissimo. Le faccio una domanda. Ipotizziamo che i greci, appunto, un referendum, non lo so, ma insomma restino della linea che ha dato quel voto a Syriza. A quel punto l'ipotesi di procedere alla stesura di alcune norme di fondo per procedure di uscita controllata che minimizzano i danni non solo tanto alla Grecia ma anche all'euroarea è così inipotizzabile? Quando si dice l'euro è per sempre, non è anche quella una contraddizione rispetto a tantissime storie di unione monetaria nella storia che ad asimmetrie così elevate, se non c'è una volontà di convergere, non reggono? No, non è escluso. Per ora quello che i greci vogliono, quello si è capito, è rimanere nell'euro e guadagnare di più, avere pensioni più alte rimanendo nell'euro. Se posti di fronte alla scelta o rimanere nell'euro o mantenere le promesse di Tsipras e di Syriza, a quel punto lì si potrebbe capire quali sono le loro preferenze. Però l'impressione che si ha è che alla fine la popolarità di questo governo sta lentamente diminuendo e di nuovo i greci, tra la politica interna e l'aggancio con l'Europa, preferiscono l'aggancio con l'Europa. Come riuscire a gestire questa incoerenza bisognerà capirlo. Certo, se alla fine i greci dicessero noi vogliamo uscire dall'euro, bisogna mettersi a tavolino e vedere come organizzare questo divorzio. Gli effetti di contagio sui paesi periferici sarebbe abbastanza rilevante. Ecco, perché c'è chi dice no, ma finché c'è l'ombrello del quantitative easing della BCE non c'è contagio. Gli esponenti del governo italiano in queste ultime due settimane hanno un po' cambiato musica, prima lo dicevano anche loro, poi sia Padoan molto chiaramente, Renzi un pochino più in maniera indiretta, però Padoan, che insomma ha un'esperienza internazionale molto forte, ha detto no, in realtà c'è un rischio di contagio sia a breve che nel medio periodo. Lei che dice? Eh sì, anche perché innanzitutto i mercati si sono ribaltati, hanno cominciato gli spread a risalire. Poi, insomma, il quantitative easing e poi l'OMT, che è l'intervento illimitato, ricordiamoci, è condizionato alla richiesta da parte dei paesi in difficoltà di un programma, che vorrebbe dire che se il contagio si estende l'Italia dovrebbe sottoporsi a un programma di aggiustamento, cosa che dal governo Monti in poi ha sempre rifiutato. Dunque sarebbe già quello un segnale di debolezza. Poi comunque il programma andrebbe negoziato e poi i mercati in ogni caso, quando ci sono delle situazioni così difficili, comunque cercano di uscire da qualsiasi rischio, vanno verso il safe haven, cioè un porto sicuro, certo. Esatto, e dunque avremo di nuovo i titoli di Stato che potrebbero risalire sui 200-250 punti base. A quel punto lì, con una crescita debole, magari incertezze finanziarie, le speranze di una ripresa anche lieve rischierebbero di venir meno e lì di nuovo la finanza pubblica rientrerebbe in fibrillazione, dovremo rivedere la finanziaria in autunno in condizioni internazionali ben peggiori di quelle che avevamo. Insomma, in altre parole vuol dire più austerità. Ecco. Eh sì, vuol dire più austerità, devo dire fa o dirà. Allora io intanto ringrazio Bini Smaghi che aveva questi pochi minuti e ce l'ha messi a disposizione. Abbiamo un minuto di informazione stradale e poi torniamo con le vostre opinioni. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:50 primi 30 secondi. Stiamo parlando dell'ipotesi di un'uscita della Grecia o di un nuovo accordo in extremis, ma che però non so come possa fare i conti con una posizione del governo greco che in realtà in 4 mesi e mezzo non si è affatto spostato come pensavano invece gli europei, i tedeschi, ma in realtà, come ha spiegato Lorenzo Binismaghi, fino a qui tutti i governi europei hanno tenuto la posizione della Germania, cioè vi abbiamo fin troppo aiutato, adesso dovete mettervi in riga. Resta il fatto che io non credo che il governo Syriza cambierà posizione e quindi la mia idea è che è meglio procedere a una rapida ricognizione di come si fa a uscire dall'euro in maniera contrattata per minimizzare i danni. Io non credo, in altre parole, alle monete prigioni, ecco, non ci credo, perché nella storia dell'unione monetaria, l'unione monetaria tra aree molto asimmetriche come produttività, costi, inflazione, occupazione e così via funzionano solo in due modi nella storia: o aprendo come vasi comunicanti, rendendo omologhe le regole dei mercati, dei beni, dei servizi e del lavoro, e quindi i mercati funzionano come vasi comunicanti che equilibrano le curve di costo, di produttività, di impiego dei capitali e del lavoro, esattamente quello che nessuno nell'euroarea vuole fare, nessuno, né i filo euro né gli anti euro, sono tutti nazionalisti, oppure con straordinarie misure di sostegno e di aiuto alla convergenza dei paesi deboli, cioè bassa produttività, bassa occupazione, elevato debito, elevata spesa pubblica, come la Grecia, ma come la Spagna, il Portogallo, l'Italia e così via. Siccome noi non abbiamo né l'una né l'altra, io credo che alla fine è meglio saperlo che la storia ci indica quella strada, cioè le monete comuni funzionano se sono scelte con regole che vengono rispettate, altrimenti non possono funzionare e vanno in pezzi. Però il costo va ai più deboli, ai più deboli in termini di occupati dei paesi più deboli. Questo è quello che è evidente in questi anni. Naturalmente la mia è un'opinione tagliata con l'accetta, quella di Binismaghi è molto più ragionevole, dire no, ma alla fine i greci accetteranno, o al massimo diranno andiamo a fare un referendum e a quel punto si vedrà. Non è che ha escluso che poi si proceda alla redazione di norme per abbandonare l'euro in maniera concordata. Sentiamo come la pensa però Giancarlo da Bologna. Prego Giancarlo. Buon pomeriggio a tutti. Sembrerebbe un problema insolubile, perché si scontrano due necessità, due problemi contrastanti. L'Europa non può accettare di cambiare le regole per un paese, perché perderebbe la faccia e, come ha già detto lei benissimo, ci sarebbero delle controindicazioni per altri paesi del meridione. La Grecia non ha i soldi per pagare, quindi questo balletto secondo me è stato fatto apposta e si sapeva fino al primo giorno. Mi verrebbe da dire, buttare lì una cosa, quasi una provocazione da bar sport, forse la soluzione è nel non cedere da parte di tutti e due e di trovare una soluzione diversa, per esempio il pagamento del famoso prestito forzoso della banca greca, del Banco di Grecia, alla Germania nazista, per cui si dice, lei i conti forse li sa meglio di me, che se si contassero anche gli interessi, era un prestito forzoso senza interessi, ma certo la Grecia non poteva scegliere, ci arriverebbe a 57 miliardi, per cui si dice no, ma le regole si rispettano. Apprezzo la provocazione, però come sa, dal punto di vista del diritto internazionale, quella partita è praticamente chiusa, ecco, la riaprirebbe per un numero di altri paesi inverosimile, però apprezzo la provocazione. Per così dire, lei dice una clausola di uscita che non consente a nessuno di voi di dire mi avete piegato. Sentiamo cosa pensa Giuseppe da Belluno. Giuseppe. Buongiorno Oscar, sì. Complimenti sempre per la sua trasmissione. Allora, qui si colpevolizza sempre la Grecia, è vero che la Grecia ha sbagliato, ma vorrei ricordare che noi, soprattutto la Germania, abbiamo prestato dei soldi, abbiamo indebitato i greci. La Germania non ha portato le Volkswagen, no, gli ha prestato dei soldi con interessi al 6-7% e con i soldi che gli ha prestato gli ha fatto comprare le loro macchine. Cioè, non so se mi spiego, adesso sono riusciti a vendergli 4 sommergibili, perché altrimenti sarebbero andati alle 100, quindi e noi siamo sulla stessa strada comunque. Allora bisognerebbe capire se l'Europa è fatta per andare avanti assieme o se l'Europa è fatta per uno fregare l'altro. Questo vorrei chiedere al Binismaghi. Binismaghi non c'è più, come ha capito Binismaghi diciamo, appartiene a una linea di opinione che è quella della ragionevolezza possibile, per così dire. Sta di fatto che la Grecia era molto indebitata con le banche, esattamente tedesche, francesi e così via, molto meno con quelle italiane. Quelle banche sono rientrate, poi si procedette al colpo di rasoio dell'abbattimento del 60% del valore del debito pubblico greco nelle mani di private. Il problema è che, ripeto, la posizione europea dice: cari greci, già 3 volte vi abbiamo fatto eccezione, adesso chiedete la quarta, quando vi abbiamo diluito il debito residuo del 30% dopo avervelo abbattuto del 65% per 50 anni. E la questione è che a quel punto, secondo me, non c'è più la volontà di starci in questa euro. Cioè, la parte radicale di Siriza, per chi ha seguito il Comitato Centrale sabato e domenica, vuole l'uscita moneta e il ritorno alla dracma, esattamente come da noi lo vogliono Grillo, Salvini e tanti altri. Per questo io dico, prima procediamo alla redazione di norme per uscita concordata. Io non escludo mica che domani in Italia ci sia qualcuno che preferisce tornare alla liretta, alle svalutazioni, all'inflazione e ai supergoverni che controllano risparmio, patrimonio e banche, come era in Italia negli anni 70. Ci sono fior di economisti che sognano di fare superministro dell'economia di quei governi, dicono che voi non ci perdereste niente in ascolto. Naturalmente non è vero, per due anni ci perdereste moltissimo, questa è la mia opinione, ma la loro, che hanno cattedre, dicono di no. E quindi questa è lo sfondo della domanda del nostro ascoltatore. Non troviamo una risposta, ma continuiamo a rifletterci. Continuate con la 24, appuntamento come a domani.